e lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un'altra ti farà ripensare ai miei occhi, ai miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, nel sorriso sulle labbra di un'altra, troverai questa mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel mondo, l'espressione d'un volto per caso ti farà ripensare al mio volto, all'aria triste che tu amavi tanto. E lontano, lontano nel mondo, una sera sarai con un'altra e ad un tratto chissà come e perché ti troverai a parlarle di me, di un amore ormai troppo lontano.